sbagliato e non mento, lo so. La soluzione che sta sempre nel mezzo l'hai scelta tu. Io non lo voglio un altro me, non mi tradisco. Ti ho già donato mille allucinazioni, ma adesso con il cuore che è balzato alla mente pretendo che tu venga dentro me insieme. Il mio meglio l'hai scelta tu. Io non capisco un altro me che mi tradisce, e proverò a farmi male una volta di più, a soddisfare il tuo ridente orgoglio. Ovunque andrò ti voglio dentro me.